America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington, Mario Platero. I would like to start this press conference by recognizing and thanking. Sono a Washington per le riunioni di primavera del Fondo Monetario Internazionale, del resto lunedì avevo dedicato la copertina proprio a questo evento. Perché? Beh, perché siamo in un momento abbastanza delicato per la tenuta della crescita, per le prospettive dei mercati che corrono ormai da parecchio tempo e soprattutto per stabilizzare quella che sembra essere su molti fronti e in molti paesi, Italia inclusa, una possibile fragilità del sistema finanziario. L'Italia ha preso un provvedimento, il Fondo Atlante, che è stato sottoscritto, approvato, benedetto dal Fondo Monetario stesso, da Christine Lagarde, che ha avuto ieri un incontro stampa e che ha detto che le sembra un'iniziativa molto buona. Dunque, devo dire, intanto è importante che ci siano incontri di questo genere. Molti li criticano, dicono ma quelli si trovano per che cosa, per riunirsi, per dire parole a vuoto. In realtà no, in realtà vengono fatte delle scelte importanti, vengono affrontati temi importanti e prima di parlare di crescita, tassi di interesse ed economia, voglio parlarvi, di un tema che è emerso ieri con una certa prepotenza. Sentiamo. Ecco, vi ho fatto sentire un estratto da una conferenza stampa che si è tenuta ieri del gruppo cosiddetto G5, cioè Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Italia, i quali si sono riuniti per affrontare la questione dei Panama Papers e hanno scritto una lettera al G20, G20 che si terrà quest'anno in Cina in settembre, per chiedere che la trasparenza dei conti sia garantita fino all'ultimo beneficiario del conto in questione, anche se il conto è segreto, se il conto riflette una fondazione o un trust o qualche cosa di giuridico che nasconde in realtà la vera identità del beneficiario, della persona che è il titolare di questo conto. Dunque, lo stesso Schäuble, devo dire, il ministro delle finanze tedesche, ha detto uno scandalo come quello di Panama Papers diventa uno scandalo utile perché ci consente di far luce, di cercare di spingere per una maggiore trasparenza e verso un traffico di conti, di elusioni, di evasioni fiscali che certo non aiutano chi invece a casa propria le tasse le deve pagare fino all'ultimo centesimo. And I'd like to quote on this occasion Robert Frost and play the weather analogy when we comment on the global economy. Ecco, il personaggio di ieri che ha dominato le riunioni del fondo è stata Christine Lagarde, il direttore del Fondo Monetario Internazionale, questo grande personaggio francese, una donna affascinante, una donna che riesce a tenere sotto controllo alcuni dei problemi più complessi del pianeta. Ebbene, il suo messaggio è molto chiaro. Qui un problema per la crescita c'è. Occorre procedere in parallelo su tre fronti. Il primo fronte è quello monetario. Il fronte monetario, però, dice la Lagarde, è già stato affrontato, sfruttato e continua ad essere sfruttato molto bene grazie all'azione congiunta della Federal Reserve da una parte, che ormai sta entrando in una fase un pochettino più conservatrice, anche se con molta prudenza, e naturalmente dalla Banca Centrale Europea di Mario Draghi, che invece ha aperto i cordoni della borsa per sostenere economia, crescita e soprattutto settore finanziario. Ci sono tassi negativi? Sì, ci sono. Purtroppo una gran parte, immagino che molti di voi ascoltatori che magari hanno dei risparmi e vogliono investirli, si rendono conto che se vanno in banca rischiano di avere un tasso negativo. E la Lagarde ha chiarito che si tratta di un fatto molto inusuale e temporaneo, ma non necessariamente di un fatto negativo. Sul fronte monetario, dunque, dice la Lagarde, le cose sono a posto. Non lo sono dal punto di vista fiscale. Ci vogliono degli stimoli fiscali o attraverso la spesa pubblica o attraverso una riduzione delle tasse e ci vogliono infine nuove, decise riforme strutturali. Attenzione, riforme strutturali che secondo me possono anche riguardare per certi settori anche gli Stati Uniti d'America, che hanno dei problemi non di flessibilità, cosa che invece abbiamo noi, ma hanno altri problemi che devono in qualche modo affrontare e risolvere. Sotto questo punto di vista, cioè riforme strutturali e stimoli fiscali, temo che la Lagarde, beh, insomma, dica le cose giuste, perché sicuramente sono le cose giuste da dire. Io stesso qui su America 24 ho continuato a ripetere quanto sia importante procedere con degli stimoli fiscali, addirittura ignorare, se si potesse, questo fatidico rapporto del 3% fra disavanzo e PIL imposto dagli accordi europei, se si potesse creare un sistema fiscale europeo, se si potesse procedere rapidamente, e questo devo dire, lo ha detto con grande forza, con grande energia il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, se si potesse procedere verso un'unione finanziaria. Insomma, nel momento in cui l'Europa rischia, perché il rischio lo conosciamo tutti, di disintegrarsi per via di Brexit, per via delle resistenze che molti stati membri hanno nei confronti di Schengen, per via naturalmente della debolezza economica e della debolezza, della fragilità del sistema finanziario, ecco, in questo momento invece, come ha detto del resto Padoan, è importante rafforzare l'integrazione. È soltanto quando si è uniti, quando si lavora insieme, che certi ostacoli si riescono a superare. Basterebbe, secondo me, un'unica posizione chiara per cambiare drasticamente le cose in Europa. E cioè una posizione chiara da parte della Germania sulla possibilità di allentare queste rigide, rigidissime regole per l'austerità, sia che si tratti appunto del livello del 3% del disavanzo PIL, sia che si tratti di continue richieste di tagli di spesa, di aumenti di tasse, di riduzione dell'esposizione sul debito, che altro non fanno se non strangolare quelle poche possibilità che ci sono di crescita per le economie europee. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, a New York ieri c'è stata una grande cena in black tie, cravatta nera, in smoking, per il Partito Repubblicano. Tutti e tre i concorrenti erano lì: John Kasich, Donald Trump, Ted Cruz, tutti in cravatta nera elegantissimi. Invece dall'altra parte, a Brooklyn, vicino al Brooklyn Yards, c'era la festa per il dibattito democratico tra Bernie Sanders e Hillary Clinton. Bernie Sanders, tra l'altro, è nato a Brooklyn. Insomma, due eventi molto diversi. Perché? Beh, perché il 19 si vota a New York. Sarà un fine settimana dunque incandescente, perché questo voto è un voto chiave. Chi vincerà a New York potrà avere la strada spianata per le elezioni importanti di Pennsylvania, molto più in là della California. E dunque dedichiamo la canzone del giorno agli eventi di ieri, direi soprattutto a quello repubblicano in smoking al centro di Manhattan, con David Bowie, Black Tie, White Noise. Sun comes up and the man goes down, woman comes again, just an hour or so to be safe from fear. Then we jump through hoops, we're divisible now, just disappear. Back in out the white, we reach out over lips and hold each other's hands and die in the face, singing shallow. Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.